ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Per più di 3 mesi di fila non fui assolutamente in grado di sognare e cominciavo a sentire il bisogno invincibile di precipitarmi in società. Precipitarmi in società significa per me andare a trovare il mio capo ufficio, Anton Antonich Setoki. Questo è stato il mio unico conoscente stabile in tutta la mia vita e ora mi meraviglio perfino io di questa circostanza. Ma non andavo da lui se non quando attraversavo un periodo così e nei miei sogni giungevo a tanta felicità che bisognava assolutamente e immediatamente scambiare un abbraccio con gli uomini e con tutta l'umanità. E per questo bisognava avere almeno un uomo a disposizione che esistesse effettivamente. Bisognava andare il martedì, che era il suo giorno, e per conseguenza anche il bisogno di scambiare un abbraccio con tutta l'umanità. Bisognava rimandarlo sempre fino al martedì. Questo Anton Antonich alloggiava ai 5 cantoni, al 4° piano, e in 4 stanzette piuttosto basse e una più piccola dell'altra, che avevano l'aspetto più economico e giallino che si potesse immaginare. Aveva 2 figliuole e la loro zia che versava il tè. Delle figliuole, una aveva 13 e l'altra 14 anni. Entrambe erano un po' camuse e io ne avevo una tremenda suggezione, perché non facevano che bisbigliare tra loro e ridacchiare. Il padrone di casa di solito sedeva nello studio, sopra un divano di cuoio davanti alla tavola, insieme con qualche canuto visitatore del nostro o anche di un altro di castero. Più di 2 o 3 visitatori e sempre gli stessi, non ci vidi mai. Discorrevano dell'imposta sulle bevande, delle aggiudicazioni in senato, di stipendi, di promozioni, di sua eccellenza, del mezzo di piacere, eccetera, eccetera. Io avevo la pazienza di star seduto accanto a questa gente come un imbecille, magari per 4 ore di seguito, e di ascoltarli, senza osare né saper attaccar discorso con loro su nessun argomento. Mi stupidivo. Cominciavo varie volte a sudare, mi incombeva il pericolo della paralisi, ma era una buona e utile cosa. Tornato a casa, rimandavo di qualche tempo il mio desiderio di scambiare un abbraccio con tutta l'umanità. Del resto, pareva che io avessi ancora un altro conoscente, Simonov, un mio antico compagno di scuola. Compagni di scuola ne avevo magari anche molti a Pietroburgo, ma non li frequentavo. E avevo smesso perfino di salutarli per via. Forse ero anche passato ad un altro dicastero per non stare insieme con loro e romperla di colpo con tutta la mia odiosa fanciullezza. Maledetta quella scuola. Maledetti quegli orribili anni di galera. Insomma, dai compagni mi separai subito, non appena ero stato liberato. Rimanevano 2 o 3 persone con le quali scambiavo ancora il mio saluto, incontrandole. In quel numero c'era anche Simonov, che nella nostra scuola non si distingueva per nessuna cosa. Era equilibrato, quieto, ma io scorgevo in lui una certa indipendenza di carattere e perfino dell'onestà. Non penso nemmeno che fosse troppo limitato. Un tempo avevo avuto con lui dei momenti abbastanza luminosi, ma non erano durati a lungo, e tutt'a un tratto si erano come velati di nebbia. Lui evidentemente sentiva il peso di questi ricordi e, a quanto pare, temeva sempre che io ricadessi nel tono di prima. Sospettavo di essergli molto antipatico, ma tuttavia andavo da lui, non essendone ben sicuro. Ecco che una volta, un giovedì, non resistendo alla mia solitudine e sapendo che il giovedì Anton Antonich aveva la porta chiusa, mi ricordai di Simonov. Salendo al suo quarto piano, pensavo appunto che a questo signore ero dipeso e che ora facevo male ad andarci. Ma poiché finiva sempre che considerazioni come queste, quasi a farlo apposta, mi spingevano ancora di più a cacciarmi in una situazione ambigua, io entrai. Era quasi un anno da quando avevo veduto Simonov. Da lui trovai altri due miei compagni di scuola. Essi discorrevano, a quanto pareva, di una faccenda importante. Alla mia venuta, né l'uno né l'altro fecero quasi nessuna attenzione, e questo era perfino strano, perché non ci vedevamo già da anni. Evidentemente mi consideravano qualcosa come una comunissima mosca. Così non mi bistrattavano nemmeno a scuola, sebbene lì tutti mi odiassero. Capivo, naturalmente, che ora dovevano disprezzarmi per l'insuccesso della mia carriera di impiegato e perché mi ero un po' troppo lasciato andare. Portavo un brutto vestito, cosa che ai loro occhi costituiva l'insegna della mia incapacità e della mia meschina importanza. Ma tuttavia non mi aspettavo un disprezzo che giungesse fino a tal punto. Simonov si meravigliò addirittura della mia venuta. Anche prima pareva sempre che si meravigliasse della mia venuta. Tutto questo mi diede da pensare. Sedetti con una certa malinconia e cominciai ad ascoltare di che cosa discorrevano. Si parlava con serietà e perfino con calore di un pranzo di addio che quei signori volevano organizzare insieme per il giorno dopo, in onore del loro compagno Zverkov, che faceva l'ufficiale e andava lontano in provincia. Il signor Zverkov era stato sempre compagno di scuola anche mio. Io avevo preso a odiarlo, specialmente a cominciare dalle classi superiori. Nelle classi inferiori era soltanto un ragazzo bellino e vivace, a cui tutti volevano bene. Del resto, io lo odiavo anche nelle classi inferiori, e precisamente perché era un ragazzo bellino e vivace. Studiava sempre e costantemente male. E quanto più andava innanzi, tanto peggio. Tuttavia, aveva finito felicemente la scuola, perché aveva chi lo proteggeva. Nell'ultimo anno da lui passato nella nostra scuola, gli era toccata un'eredità, 200 anime. E poiché fra noi quasi tutti erano poveri, lui si mise a fare lo smargiasso perfino con noi. Era triviale in sommo grado, ma tuttavia un buon ragazzo, perfino quando faceva lo smargiasso. Fra noi, poi, nonostante le forme esteriori, fantasiose parolaie, dell'onore, dell'amor proprio, tutti, tranne pochissimi, facevano addirittura la corte a Zverkov, quanto più lui faceva lo smargiasso. e non per un qualche vantaggio gli facevano la corte. Così, per il fatto che era un uomo favorito dai doni della natura. Inoltre, fra noi usava, non so come, considerare Zverkov come uno specialista in fatto di disinvoltura e di buone maniere. Quest'ultima cosa mi infuriava in modo speciale. Odiavo il suono aspro e sicuro di sé della sua voce, il suo culto delle proprie arguzie, che gli riuscivano tremendamente sciocche, sebbene egli fosse di lingua ardita. Odiavo il suo viso bello, ma sciocco, col quale del resto avrei cambiato volentieri il mio intelligente, e i suoi modi spigliati da ufficiale del quinto decennio del nostro secolo. Odiavo ciò che egli raccontava delle proprie future fortune con le donne. Non si decideva a cominciare con le donne perché non aveva ancora le spalline da ufficiale e le attendeva con impazienza, e come ogni momento si sarebbe battuto in duello. Ricordo che io, sempre taciturno, a un tratto mi accapigliai con Zverkov. Quando lui, discorrendo una volta nelle ore di libertà coi compagni delle prossime avventure, sfrenandosi, finalmente, come un giovane cucciolo al sole, dichiarò a un tratto che non avrebbe lasciato senza le sue attenzioni nemmeno una fanciulla di campagna nel suo villaggio, che questo era un droit de seigneur, e i contadini, se avessero osato protestare, li avrebbe fatti frustare tutti, e a tutti loro, canaglie barbute, avrebbe raddoppiato il canone. I nostri villanzoni applaudivano, io invece mi ci accapigliai. E niente affatto per compassione delle fanciulle e dei loro padri, ma semplicemente per il fatto che applaudivano tanto un insettucolo come lui. Allora ebbi il sopravvento, ma Zverkov, sebbene fosse sciocco, era allegro e insolente, e perciò se la cavò ridendo, e anzi, in modo che in verità non ebbi del tutto il sopravvento. E la gente rise di me. Dopo ebbe ancora varie volte il sopravvento su di me, ma senza rancore, così, scherzando di passata, ridendo. Io, rabbiosamente e sprezzantemente, non gli rispondevo. Dopo l'esame di licenza, egli volle avvicinarsi a me. Io non opposi molta resistenza, perché la cosa mi lusingava, ma presto e assai naturalmente ci allontanammo l'uno dall'altro. Poi sentii parlare dei suoi successi di tenente di caserma, di come faceva baldoria. Poi corsero altre voci sui progressi che faceva nel servizio. Per strada non mi salutava più, e io sospettavo che temesse di compromettersi, scambiando il saluto con una persona insignificante come me. L'avevo visto una volta anche a teatro, in un palco di terz'ordine, già con le cordelline. Si prodigava e si inchinava davanti alle figlie di un vetusto generale. Nel periodo di forse 3 anni si era molto lasciato andare, sebbene fosse come prima, bello e disinvolto. Si era gonfiato, aveva cominciato a ingrassare. Era visibile che verso i 30 anni sarebbe avvizzito del tutto. Appunto, a questo Zverkov, che finalmente partiva, i nostri compagni volevano dare un pranzo. In tutti quei 3 anni lo avevano costantemente frequentato, sebbene essi stessi, nel loro intimo, non lo considerassero un loro pari. Ne sono sicuro. Dei 2 visitatori di Simonov, uno era Ferfichi, un russo di stirpe tedesca, piccolo di statura, con una faccia scimmiesca, uno sciocco che derideva tutti, acerrimo nemico mio fin dalle classi inferiori, un piccolo fanfarone, vile e insolente, che faceva sfoggio del più permaloso amor proprio, quantunque si intende vigliacchetto nell'anima. Era di quegli estimatori di Zverkov che lo solleticavano con secondi fini e spesso si facevano prestare del denaro da lui. L'altro visitatore di Simonov, Trudolyubov, era una persona irrilevante, un giovane militare di alta statura, con una fisionomia gelida, abbastanza onesto, ma che si inchinava dinanzi ad ogni successo e non era capace di ragionare se non di promozioni. Di Zverkov veniva ad essere non so che lontano parente, e questo tra noi sembra stupido a dirsi, gli conferiva una certa importanza. Me mi aveva costantemente tenuto in conto di nulla e mi trattava, se non proprio educatamente, tuttavia in modo sopportabile. Ebbene, se sono 7 rubli a testa, si mise a dire Trudolyubov, siamo in 3, 21 rubli. Si può pranzar bene, Svergor. Naturalmente non paga. Si intende? Dal momento che lo invitiamo, sentenziò Simonov. Ma è possibile che pensiate, si intromise a dire con insolenza e con foga Ferfikin, come uno sfrontato servitore il quale si vanti delle croci del generale suo padrone. È possibile che pensiate che Zverkov lasci pagare noi soli? Per delicatezza accetterà, ma in cambio ne tirerà fuori 30 per suo conto. Beh, che ce ne facciamo noi 4 di 30? Osservò Trudolyubov, facendo attenzione solamente alla 30. Così siamo 3. Con Zverkov 4. 21 rubli. All'Hotel de Paris, domani alle 5. Concluse definitivamente Simonov, che aveva la scelta come organizzatore. Ma come 21? Dissi io, con una certa agitazione, evidentemente perfino offeso. Come 21? Contando me, saranno non 21, ma 28 rubli. Mi era apparso che offrirmi a un tratto e così inattesamente sarebbe stato perfino molto bello, e che tutti loro sarebbero stati vinti di colpo e mi avrebbero guardato con rispetto. «Ma ci volete stare anche voi?» osservò con dispetto Simonov, come evitando di guardarmi. Egli mi conosceva a memoria. Mi infuriò che mi conoscesse a memoria. «E perché? Sono anch'io un compagno, mi sembra, e lo confesso, mi riesce perfino offensivo d'esser stato dimenticato», dissi, ribollendo di nuovo. «E dove si aveva da cercarvi?» intervenne a dire villanamente Ferfikin. «Voi siete sempre stato in rapporti poco buoni con Zverkov», aggiunse Trudolyubov, accigliandosi. Ma io mi ero impadronito della cosa e non volevo lasciar correre. «Mi pare che questo nessuno abbia diritto di giudicarlo», replicai con un tremito nella voce, come se fosse accaduto Dio sa cosa. «Appunto perché prima ero in rapporti poco buoni, ora forse voglio starci». Che vi capisce, cioè, queste elevatezze?» disse Trudolyubov sorridendo. «Vi iscriveremo», stabilì rivolgendosi a me Simonov. «Domani alle 5 all'Hotel de Paris, non sbagliate!» «Ma i quattrini?» cominciò a dire Ferfikin a mezza voce, indicandomi a Simonov. Ma si inceppò, già che perfino Simonov era rimasto male. «Basta», disse Trudolyubov alzandosi. «Se gliene è venuta tanta voglia, venga pure». «Ma il nostro è un gruppetto intimo, di amici», disse con rabbia Ferfikin, pigliando il cappello anche lui. «Non è una riunione ufficiale». «Forse non vi vogliamo affatto». Andarono via, Ferfikin andandosene. Non mi salutò per niente Trudolyubov. Mi fece appena un cenno, senza guardarmi, e Simonov col quale rimasi a quattro occhi, era in uno stato di dispettosa perplessità e mi guardò stranamente. Non si sedeva. Non mi invitava a sedere. Sì. Sì. Allora a domani. A domani i quattrini li date adesso. E è solo per saperlo con certezza. Borbottò, confuso. Io avvampai. Ma avvampando ricordai che da tempo immemorabile dovevo a Simonov 15 rubli. E del resto non l'avevo mai dimenticato, ma pure non li avevo mai restituiti. Convenite voi stesso, Simonov, che non potevo saperlo entrando qui, e mi secca molto, davvero molto, d'aver dimenticato. Bene. Fa lo stesso, regolerete domani al pranzo, del resto era solo per sapere. Per favore, non sia... Egli si inceppò e si mise a camminare per la stanza anche più schizzito. Cominciò a drizzarsi sui tacchi e nel fare così a picchiare più forte coi piedi. E non vi trattengo, forse? Domandai dopo due minuti di silenzio. No, egli disse. No, riscotendosi a un tratto. No, cioè, sì, in verità sì. Vedete, dovrei ancora passare. Qui non lontano, soggiunse con la voce di chi chiede scusa, vergognandosi un poco. «Ah, Dio mio, perché non lo dite?» gridai io, afferrando il berretto con un aspetto del resto straordinariamente disinvolto. È venutomi Dio sa donde. «Non è mica lontano, qui a due passi», ripeteva Simonov, accompagnandomi fino all'anticamera con un aspetto affaccendato che non gli stava affatto bene. «Allora domani alle 5 in punto», mi gridò sulla scala. Era proprio molto contento che me ne andassi. Io, invece, ero infuriato. Ma che cosa mi ha spinto? Che cosa mi ha spinto a saltar su? Mi dicevo, e digrignavo i denti, camminando a gran passi per la via. E per un mascalzone, un porcello, come quello per Zverev. Si intende che non bisogna andarci, si intende che bisogna infischiarsene. Sono forse legato io. Domani stesso avvertirò Simonov con una lettera, ma mi infuriavo appunto perché sapevo di sicuro che ci sarei andato. Che ci sarei andato apposta e che quanto più indiscreto, quanto più sconveniente fosse stato per me andarci, tanto più ci sarei andato. E c'era perfino un concreto impedimento per non andarci. Non avevo quattrini. Non li avevo. In tutto e per tutto possedevo 9 rubli. Ma di essi 7 bisognava che li dessi il giorno dopo come salario mensile ad Apollon, il mio servo, che stava con me per 7 rubli col vitto a suo carico. Non darglieli, poi era impossibile a giudicare dal carattere di Apollon. Ma di questa canaglia, di questa mia piaga di Apollon, appunto, parlerò poi, un giorno o l'altro. Del resto, sapevo che però non glieli avrei dati. E senza fallo ci sarei andato.